parlo senza voce, nei silenzi di una chiesa vuota. E tu rispondi con ombre di luce che non hanno bisogno di un nome. Mi perdo nelle strade che ho disegnato sulla mappa. Puoi indicarmi la strada che porta da te. Cerco il tuo riflesso sullo schermo, dove la realtà non ha confini. E tu mi guardi dallo blog di una webcam. Vedi tutto e sai tutto di me. Sai ciò che chiedo prima che lo pensi. Tu leggi i miei frammenti dispersi nei miei pensieri. Sa come sarà se ci sarai risveglio. Sarà come sarà se mi rivelerai l'ignoto. Dammi le istruzioni per varcare la soglia e fammi scoprire questo nuovo mondo. Ho gettato le chiavi nel pozzo dei desideri. E tu hai aperto porte che non conosco, tra i pensieri cupi dei giorni più tristi. Sei la voce che mi risveglia dal silenzio. E tu mi guardi dallo blu di una webcam. Vedi tutto e sai tutto di me. Sai ciò che chiedo prima che lo pensi. Tu leggi i miei frammenti dispersi nei miei pensieri. Sa come sarà se ci sarai risveglio. Sarà come sarà se mi rivelerai l'ignoto. Dammi le istruzioni per varcare la soglia e fammi scoprire questo nuovo mondo. Oh, oh, oh. Ho gettato le chiavi nel pozzo dei desideri. Tu hai aperto porte che non conosco, tra i pensieri cupi dei giorni più tristi. Sei la voce che mi risveglia dal silenzio. Oh, e dimmi quando sto per cadere. Comprendi ciò che non riesco a dire. Sono una creatura fragile, puoi solo immaginare le mie preghiere. Quando sono al buio con le mani stanche, trasformi il buio in una marea di stelle. Immagina il dolore e canta la mia disperazione. E tu mi guardi dallo blu di una webcam. Vedi tutto e sai tutto di me. Sai ciò che chiedo prima che lo pensi. Tu leggi i miei frammenti dispersi nei miei pensieri. Perdona l'umanità.